Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non mi sarei aspettato le dimissioni di un qualunque capo politico a pochi giorni dal voto. Credo che ci siano delle regole di carattere istituzionale che vogliano che il capitano di una nave sia sulla nave fino al momento dell'impatto e sia l'ultimo magari a saltare, a mettersi in salvo. A pochi giorni dalle elezioni sicuramente hanno mandato un segnale di sfiducia, anche di debolezza nei confronti dell'elettorato di riferimento. Fossi stato lui avrei aspettato almeno la giornata successiva per prendere delle responsabilità e fare una scelta del tutto legittima di dimettersi. Dura la critica, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dell'ex ministro dell'istruzione che era in quota Movimento 5 Stelle Fioramonti nei confronti di Di Maio. Questa è la sua lettura anche in parte dell'esito del tracollo del Movimento 5 Stelle, soprattutto in Calabria, in queste elezioni regionali di cui abbiamo parlato moltissimo ieri, perché dice si è dimesso pochi giorni prima, invece doveva arrivare fino a questo punto e prendersi le responsabilità e poi legittimamente dimettersi. Sapete che è uscito Fioramonti in realtà dal Movimento 5 Stelle e questa, diciamo, la sua critica nei confronti del suo ex capo politico. Ovviamente ci concentreremo sulla politica per il dopo voto. Ieri abbiamo parlato diffusamente dei risultati, però capiamo anche quali sono le conseguenze effettivamente sul governo per le diverse visioni dei due maggiori alleati, che sono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con Zingaretti, del segretario del PD, che continua a insistere per un'alleanza più strutturale, più solida col Movimento 5 Stelle. Ma nel Movimento 5 Stelle, diciamo, ci sono molte anime che hanno una visione diversa. Poi sentiremo quali sono gli sviluppi sul coronavirus. Salgono le vittime, anche gli infettati. C'è l'Unione Europea che sta prendendo delle misure stringenti, così l'Italia. Sentiremo il viceministro della Salute. Poi il piano annunciato, che doveva essere epocale, sul Medio Oriente, del presidente americano Trump. Già il presidente dei palestinesi Abu Mazen ha respinto questo piano. Approfondiremo un po' quali sono i dettagli di questa proposta. E poi una vincita pazzesca, siete stati voi, qualcuno tra voi, il vincitore, di cui parlerò tra pochissimo. Direi che, mentre vi ricordo che potete scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure inviarli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666, possiamo senz'altro partire. Il governo dopo le elezioni regionali, la maggioranza va avanti e Zingaretti insiste per un'alleanza più solida col Movimento 5 Stelle. Si procede intanto sulla prescrizione, ma Italia Viva non vota il testo di Forza Italia che torna in commissione. Coronavirus, i morti salgono a 106, 4.515 nuovi casi di infezione. Allerta New York per 5 casi sospetti. L'unità di crisi della Farnesina lavora a un ponte aereo per gli italiani rimasti in Cina. A Effetto Notte sarà ospite il viceministro della Salute. Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia il piano per il Medio Oriente, due stati con Gerusalemme Est capitale della Palestina, ma il presidente palestinese Abu Mazen respinge la proposta. Economia italiana, il nord-est guida la crescita, PIL a più 1,4% nel 2019, il nord-ovest doppia il sud. Portogallo e tasse, il Partito Socialista al governo propone di tassare fino al 10% i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest'anno. Seggiolini antiabbandono, la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto per l'assegnazione del contributo o del rimborso per l'acquisto dei dispositivi. Calcio, per la Coppa Italia in campo Milan-Lazio e poi Super Enalotto, è uscito il 6, vince 67 milioni. La schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia. Partiamo quindi Milan-Lazio, la partita, naturalmente non voglio spaventare nessuno, e partiamo quindi dalla politica italiana. Nel dopovoto per le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, il governo resta fermo sui soliti nodi, primo fra tutti la prescrizione. Un rinvio che potrebbe preludere ad una bocciatura, rimandata in commissione la proposta di legge a firma del forzista Enrico Costa contro lo stop alla prescrizione della riforma Bonafede. La Camera vota e non passa la linea dell'opposizione, grazie anche ad Italia Viva che abbandona l'emiciclo di Montecitorio. Così Costa. Cioè, un conto è la bocciatura e noi l'avremmo accettata perché il Parlamento sarebbe stato sovrano e l'avrebbe respinta. Il fatto è che questa maggioranza non è neanche capace di bocciare il provvedimento dell'opposizione. Italia Viva aveva annunciato un voto a favore di Costa e contrario al governo, ma in aula la deputata Lucia Annibali spiega così la marcia indietro. La posizione di Italia Viva rispetto alla riforma della prescrizione del ministro Bonafede è da sempre stata molto chiara. È forse apprezzabile l'apertura dimostrata dal ministro anche in sede di replica. Tutto rimandato quindi per trovare un accordo all'interno della maggioranza, ma da parte dell'opposizione si aspetta che la proposta di legge torni in aula a febbraio e si annuncia anche la richiesta di voto segreto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco ci sarà spazio per tornare naturalmente sulla politica italiana. Passiamo all'economia. Il ministro dell'economia, per l'appunto, Roberto Gualtieri, riferendosi in particolare all'andamento delle entrate grazie al contrasto all'evasione fiscale, ha detto: molto probabilmente chiuderemo il 2019 con deficit più basso del previsto e i nostri obiettivi per il 2020 diventeranno più facilmente raggiungibili. L'Italia del PIL, del prodotto interno lordo, è divisa in due, il centro-nord avanti, il mezzogiorno indietro. Lo dicono i numeri dell'Istat, stavolta anche le parole. Lo stesso istituto, in testa ai rapporti sui conti economici territoriali, definisce ampio il divario di crescita economica tra i due blocchi. Ma il rallentamento subito dall'economia già nel 2018 ha generato anche altre fratture. Il nord si spacca con l'est che corre il doppio dell'ovest, segno probabilmente della difficoltà della grande industria, mentre i distretti riescono a spuntarla. Il sud invece, in attesa di un piano di rilancio, resta al palo. Nel meridione a crescere solo il nero. La fotografia dell'Istat restituisce quindi un paese frammentato in termini di prodotto lordo. Nel 2018 il PIL in volume è aumentato dell'1,4%, nel nord-est dello 0,7%, nel nord-ovest e nel centro dello 0,3% invece dello 0,3% scusate, nel mezzogiorno. Il PIL pro capite invece vede in cima alla graduatoria l'area del nord-ovest con un valore in termini nominali di oltre 36.000 euro, quasi il doppio di quello del mezzogiorno che è circa 19.000 euro annui. Sui debiti della pubblica amministrazione, la Corte europea contro l'Italia avrebbe dovuto assicurare il rispetto da parte dei termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni. La Corte di giustizia europea boccia l'Italia sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Secondo i giudici, Roma ha violato la direttiva europea che prescrive alla PA, quando debitrice, di pagare i fornitori entro 30 o 60 giorni di calendario. La Corte ha stabilito il principio con una sentenza che chiude una causa aperta da un ricorso della Commissione europea. I giudici di Bruxelles hanno valutato la situazione al 16 aprile 2017, ma, secondo l'ANCE, nonostante qualche miglioramento, i ritardi medi dei pagamenti nel settore delle costruzioni superano ancora 4 mesi e mezzo, con un totale di 6 miliardi di arretrati a danno delle imprese. Confartigianato poi stima il peso dei debiti della PA nei confronti delle imprese al 3% del PIL, il doppio rispetto alla media dei paesi europei. Il Ministero dell'Economia puntualizza che i tempi di pagamento sono migliorati. Nel 2018 la PA ha saldato i debiti in 54 giorni, con un ritardo medio di 7 sulla scadenza delle fatture contro i 10 giorni del 2017. Ma l'opposizione attacca. Conte lavori o si dimetta, dice Matteo Salvini. E Forza Italia, annuncia Maria Stella Gelmini, presenterà un'interrogazione in Parlamento. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al virus cinese. Non si arresta il propagarsi del coronavirus, potrebbero però esserci farmaci efficaci già in commercio. Su questo si stanno concentrando i ricercatori cinesi. Un caso accertato intanto in Germania, allerta per 5 casi sospetti a New York. L'Italia si muove per rimpatriare i connazionali. Le vittime sono 106. In mancanza di vaccini, per ora la quarantena rimane l'unica difesa contro il diffondersi del coronavirus che ormai, seppur con pochi casi, riguarda diversi paesi fuori dalla Cina. Hong Kong ha deciso di bloccare treni e traghetti, di dimezzare i voli per la Cina e anche la Casa Bianca fa sapere di stare valutando restrizioni da e verso Pechino, che nel frattempo ha deciso di rinviare a data da destinarsi la riapertura di scuole e università. In Europa la Germania ha confermato il primo caso, mentre in Italia ce ne sono 2 sospetti, una donna a Pistoia e un uomo a Napoli, entrambi turisti cinesi. Il nostro, secondo l'OMS, è il paese occidentale più organizzato e attento dal punto di vista delle misure preventive, così il ministro della Salute Roberto Speranza. Siamo in collegamento costante con tutte le organizzazioni internazionali, a partire dall'OMS. Stiamo tenendo alta la soglia d'attenzione, siamo per evitare allarmismi, ma c'è la massima cautela da parte delle istituzioni nazionali. Il tutto mentre diversi stati, Italia compresa, si stanno organizzando per riportare in patria i connazionali bloccati a Wuhan, città epicentro dell'epidemia. A questo fine l'Unione Europea, su richiesta francese, ha attivato il meccanismo di protezione civile comunitario per fornire assistenza consolare ai cittadini UE. L'Unione cofinanzierà il costo di trasporto degli aerei. Il primo partirà dalla Francia già nelle prossime ore, mentre il secondo decollerà più tardi in settimana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo tema sarà ospite tra poco qui Effetto Notte il vice ministro della Salute. Adesso passiamo all'estero, col Medio Oriente. Il presidente americano Trump presenta il suo piano di pace per israeliani e palestinesi, propone la soluzione di due stati con Gerusalemme capitale indivisa di Israele e Gerusalemme capitale, Gerusalemme Est capitale della Palestina. Investimenti per 50 miliardi di dollari per i palestinesi. Per Trump, che ha presentato il piano insieme al primo ministro israeliano Netanyahu, quello di oggi è un grande passo verso la pace. Ai palestinesi 4 anni, ha detto, per trattare, l'ultima occasione possibile, però poco fa il presidente palestinese Abu Mazen ha respinto il piano di Trump. Ne torneremo a parlare nel corso di questa puntata, anche per capire meglio i dettagli di questo piano. I viaggi di Radio 24. Seconda puntata del viaggio di Radio 24 su Brexit, nella settimana che porterà alla storica uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Oggi vi spieghiamo cosa è contenuto nell'intesa di divorzio tra Londra e Bruxelles. Hanno sottoscritto questo piano in due fasi, prima con l'allora prima ministra Theresa May nel novembre 2018, poi con l'attuale primo ministro Boris Johnson, che quell'accordo ha modificato nell'ottobre dello scorso anno. 106 pagine per un divorzio tra i più controversi e combattuti della storia. La legge sull'intesa di ritiro della Gran Bretagna contiene tutte le norme legali per la separazione di Londra dal resto dell'Unione Europea. Si divide in 5 parti. Le prime 2 sul periodo di implementazione dell'intesa, la terza sui diritti dei cittadini, la quarta sulle altre aree rilevanti, quali Nord Irlanda, conto del divorzio, scrutinio parlamentare, infine la quinta sulle conclusioni. Ma quali sono i contenuti principali di questa intesa? In primis, stabilisce un periodo di transizione fino al 31 dicembre. Insomma, pur se formalmente un paese terzo, la sola cosa che cambierà per Londra nei prossimi 11 mesi sarà la sua assenza dalle istituzioni europee. Nell'accordo è presente anche l'indicazione del conto del divorzio, circa 45 miliardi di euro, che Londra dovrà continuare a pagare a Bruxelles nei prossimi anni finché non si saranno esauriti tutti i programmi che ha sottoscritto in passato. Sui diritti dei cittadini viene istituita un'autorità di monitoraggio indipendente alla quale gli europei potranno rivolgersi qualora intendano denunciare discriminazioni. Ma soprattutto si mette nero su bianco il nuovo accordo sull'Irlanda del Nord. Nella pratica l'Ulster assumerà dal prossimo anno uno status ibrido. Formalmente parte della Gran Bretagna dal punto di vista dell'unione doganale, l'Irlanda del Nord si vedrà però virtualmente separare dalla madrepatria con la creazione di un confine marittimo nel mare d'Irlanda. Quando un prodotto entrerà nell'Ulster dal Regno Unito verrà soggettato ai dazi europei, qualora proseguisse verso Dublino, e a quelli britannici qualora invece rimanesse a Belfast. Per il futuro dei rapporti tra Londra e Bruxelles invece occorrerà raggiungere una nuova intesa di partenariato entro fine anno. Tra un mese si comincerà a trattare in una corsa contro il tempo che promette tensioni e colpi di scena. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è la notizia di un terremoto di magnitudo 7,7 tra Cuba, la Giamaica e le isole Cayman, e ci sarebbe un'allerta tsunami. E poi in Portogallo il Partito Socialista al governo ha proposto di tassare fino al 10% i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest'anno. Sapete che sono molti italiani pensionati che vanno a svernare in Portogallo. La proposta è contenuta in un emendamento alla finanziaria del 2020. Lisbona aveva esentato gli europei dal pagamento delle tasse per 10 anni a condizione che vivessero in Portogallo per 6 mesi l'anno. Di nuovo in Italia la cronaca, appunto, un'altra scossa di terremoto invece per quanto riguarda l'Italia, di magnitudo 3,3 ad Accumoli. È tornata la paura, ma per fortuna nessun danno, l'epicentro proprio nel paese devastato dal sisma dell'agosto del 2016. Smog, no al divieto totale della circolazione delle auto nel comune di Milano, e la posizione della regione Lombardia sull'iniziativa antismog annunciata per domenica prossima dal sindaco Beppe Sala. La contrarietà sulla domenica a piedi è stata formalizzata con una mozione urgente approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. I consiglieri 5 Stelle non hanno partecipato al voto, uno si è astenuto, contrari invece PD e gli altri gruppi di opposizione. In Austria non è stato l'odore sgradevole o del fritto, ma il profumo di dolci a suscitare le proteste dei vicini, che ha portato alla chiusura del laboratorio della pasticceria Sluka in piazza Municipio a Vienna. La storica pasticceria, fondata nel 1891, nella sua lunga storia ha rifornito di dolci anche la corte imperiale austro-ungarica. Il profumo sembra però non essere gradito dai vicini di casa e dopo un lungo braccio di ferro hanno imposto uno stop alla produzione. La pasticceria Sluka in piazza Municipio resta aperta, il rifornimento di dolci avverrà tramite la filiale della Kärntner Strasse, assicura l'amministratore delegato sui social media. Per i nostri clienti, aggiunge, non cambierà nulla e la nostra arte pasticcera resta invariata anche nei suoi ingredienti come i tempi dell'impero austro-ungarico. E poi Super Enalotto, una vincita con il 6 è stata realizzata. Stasera la schedina vincente vale 67.218.272,10 euro ed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola in provincia della Spezia. Non so se magari è qualcuno tra di voi, tra ascoltatori di Effettonote, sarebbe un bel colpo. Per chiudere lo sport, il calcio con Dario Ricci in diretta dallo stadio di San Siro, la Coppa Italia. Dario! Sì, buonasera, Milan-Torino, quarto di finale di Coppa Italia, siamo al 30° del primo tempo, 1-0 per il Milan che è partito con un paio di fiammate e poi al 12° ha trovato il gol, iniziativa di Rebic, imprendibile anche questa sera, sulla sinistra il cross era su terra sul secondo palo dove sbuca Bonaventura che a gioco facile a battere Sirigu. Torino impalpabile, ancora sotto shock dopo il KO tremendo subito sabato sera in campionato in casa contro l'Atalanta, lo ricorderete, lo 0-7, ma finora è stata soprattutto la serata del ricordo di Kobe Bryant, il grande campione dell'NBA che come purtroppo sappiamo è morto domenica in un incidente in elicottero, prima un commovente ricordo sulla base della musica melanconica dei Queen e poi al 24° minuto il numero di maglia di Kobe che vestiva appunto il 24 dei Lakers, tutto lo stadio, tifosi granati e milanisti uniti, si è alzato in un lungo applauso durato l'intero minuto a commemorare il grande campione scomparso. Per il momento 32° di gioco a San Siro, Milan 1, Torino 0, decide Bonaventura al 13°. Grazie Dario Ricci in diretta dallo stadio di San Siro, poi ci aggiornerà sul proseguo di questa partita di Coppa Italia Milan-Torino che per il momento appunto avete sentito conduce il Milan 1-0. Ci fermiamo momentaneamente in modo che tra poco possiamo addentrarci nel cuore degli argomenti in primo piano. 349-238-6666 numero per i vostri commenti via SMS e WhatsApp, altrimenti scriveteli comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, avete sentito anche a proposito di questa allerta tsunami al largo di Cuba e poi naturalmente anche le varie dichiarazioni di politica, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, la sintesi della giornata che avete appena sentito. Per esempio dice Guido a proposito del dopo elezioni, quella del PD è una vittoria di Pirro, ha vinto Bonaccini e il voto disgiunto, PD sempre al gas, Movimento 5 Stelle è morto, secondo questa analisi di Guido. Ma ne parleremo tra pochissimo, vi ricordo per i vostri commenti appunto c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, quali sono i titoli principali di questa giornata. Il governo dopo le elezioni regionali, con appunto la maggioranza che va avanti, resta il nodo della prescrizione. Intanto il leader del PD Zingaretti insiste per un'alleanza più solida col Movimento 5 Stelle. Coronavirus, i morti salgono a 106, 4.515 nuovi casi di infezione. Allerta New York per 5 casi sospetti. Ci sarà ospite qui a Effetto Notte tra poco il viceministro della Salute. Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia il piano per palestinesi e israeliani, due stati con Gerusalemme Est capitale della Palestina. Ma il presidente palestinese Abu Mazen poco fa ha respinto la proposta. Per l'economia italiana i dati Istat con Nord-Est che guida la crescita, nel 2019 il Nord-Ovest ha doppiato il Sud. Il Portogallo col Partito Socialista al governo che ha proposto di tassare fino al 10% i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest'anno. E poi per il calcio la Coppa Italia in campo Milan-Torino, avete sentito in vantaggio per ora il Milan per 1-0 e il Superenalotto con questa vincita, è uscito il 6, vince 67 milioni, la schedina giocata ad Arcola in provincia di La Spezia. Dunque oggi è il giorno dopo, il day after delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Per quanto riguarda i risultati, ieri insomma abbiamo parlato ampiamente di vinti, vincitori, le reazioni politiche e adesso che cosa succede, anche visto che Matteo Salvini ne aveva fatto di questo voto, soprattutto in Emilia Romagna, un referendum su se stesso e anche sul governo. Allora voglio chiedere lumi a Lina Palmerini. Buonasera. Lina, citofono, ma non per farti domande indiscrete. Intanto ti chiedo, sei tu che hai vinto i 67 milioni per caso? Passavi da lì vicino alla Spezia? Magari. Niente, no, magari. Niente. Forse non ti avrei risposto al telefono, nemmeno al citofono, guarda. Infatti, rispondendo al citofono, evidentemente non sei scappata col bottino. Va bene, allora sei qui per illuminarci. Non mi chiedi di cantare Piange il citofono, ma perché sarebbe bellissimo. Sono nate tutta una serie di parodie su stai citofonando, piange il citofono. No, no, sei sei libera di intonare quello che vuoi, sarà bellissimo. Ci vuoi provare? Non lo farai. No, no. Va bene, magari in privato. Allora, invece concentriamoci su ciò che adesso appunto accade alle due forze, gli alleati di governo, PD e Movimento 5 Stelle, e quindi anche al governo stesso, visto che sono i maggiori alleati, insomma, in questa maggioranza di governo. Io direi intanto di far sentire Salvini, che ieri aveva detto, vabbè, capita di perdere, però rifarei tutto quello che ho fatto, a proposito di piangere il citofono e se citofonando. Sentiamo. Quando si gioca si può vincere o si può perdere. Per fortuna ogni tanto perdiamo. Sai che noia. 9 elezioni regionali, ne abbiamo vinte 8. Rifarei tutto, assolutamente. Ma anche il citofono, il radiotelefono, il magnetofono e il grammofono. Però per quanto riguarda il centrodestra, diciamo che Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, e Berlusconi, leader di Forza Italia, dopo la sconfitta in particolare in Emilia Romagna, perché hanno vinto invece in Calabria naturalmente, più o meno indirettamente hanno fatto capire a Salvini: guarda, che non può essere l'unico l'uomo da solo al comando, perché se siamo dentro un'alleanza, insomma, bisogna un po' ricreare gli equilibri. Invece, Lina, capiamo appunto, dicevo, la posizione del PD e del Movimento 5 Stelle, non solo per il futuro delle singole forze politiche, ma per il governo stesso. Allora, Vito Crimi, il reggente dopo le dimissioni di Di Maio, a proposito di Di Maio, Lina, ho fatto sentire all'inizio Fioramonti, ex ministro dell'istruzione del Movimento 5 Stelle, che è uscito dal Movimento 5 Stelle, che ha detto, insomma, mi sarei aspettato che un capitano della nave non abbandonasse la nave prima di affondare, ma insomma portasse avanti il suo ruolo, le sue responsabilità, e poi legittimamente, magari dopo queste elezioni, lasciasse il suo ruolo. Che ne pensi di questo commento? Non ha torto, perché un leader politico naturalmente prende il merito delle vittorie, ma prende su di sé anche le sconfitte, quindi abbiamo già altre volte commentato che il tempismo di Maio è stato, insomma, piuttosto sconcertante, anche perché poi, sai, i conti con la sconfitta li devono fare, li stanno facendo. Tra l'altro proprio questa sera è stato eletto Bonafede come capodelegazione del governo, e quindi, insomma, hanno avviato questo lungo processo di discussioni che porterà poi agli stati generali di marzo, in cui tanti nodi verranno al pettine e dovranno anche essere sciolti, innanzitutto quello della collocazione, perché come diceva chiaramente in un'intervista Max Bugani, che è uno storico del Movimento 5 Stelle, al momento ci sono tre anime: quelli che vogliono un'alleanza strutturale con il PD, quelli che invece continuano a guardare alla Lega e quelli che invece insistono sulla neutralità del movimento, quindi sul fare accordi dopo il voto. Infatti, a questo proposito, Lina, farei sentire proprio Crimi, che adesso, prima che Bonafede appunto diventasse capo delegazione, già ieri Bonafede ha detto poco fa: raccolgo il testimone del mio amico Luigi Di Maio, a cui vanno i nostri ringraziamenti per quello che ha fatto, so che ci sarà bisogno di grande determinazione in un momento così delicato per il movimento, in questo cammino continuerò a valermi dello stesso metodo che ho utilizzato finora, quello del dialogo e del confronto. Però Crimi ieri ha risposto probabilmente sia a un commento del Presidente del Consiglio Conte, sia allo slancio entusiastico di Zingaretti, che aveva detto ci vogliono alleanze più larghe. Fare sentire allora, ancora prima di Crimi, fare sentire Conte, che dice dobbiamo fermare queste destre, aveva detto ieri. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre, quindi io mi auguro che si possa rinforzare sempre più un ampio fronte, poi lo chiamate come volete voi, lo possiamo chiamare progressista, riformista, alternativo alle destre, non lo so, però sicuramente un ampio fronte dove possono trovare posto e possano sentirsi a proprio agio tutte le forze, pur con diverse sensibilità, che però vogliono condurre una politica alternativa a queste destre. Quindi in qualche modo Conte ha schierato, diciamo, il governo, no? Con questa dichiarazione, Lina, quindi più a centrosinistra, a sinistra. Ma direi anche se stesso, visto che da molti è considerato un punto di riferimento nel Movimento 5 Stelle. Sicuramente lui non è schierato con quella parte di cui parlavo prima, che guarda ancora alla destra e alla Lega, quindi sicuramente lui è punto di riferimento anche per i parlamentari, molti in maggioranza, i parlamentari grillini che vogliono che questa esperienza di governo con il PD si trasformi in qualcosa di più strutturale. Però siccome la discussione è in corso e, come dicevo, ci sono almeno tre anime, c'è anche un rischio scissione, ne ha parlato, ripeto, chiaramente Max Bugani, dicendo anche i matrimoni finiscono. Ecco, proprio queste divisioni, queste fibrillazioni, questi nervosismi portano una conseguenza pratica sul governo, cioè la conseguenza della paralisi, di un continuo rinvio. Per esempio oggi di nuovo è stata rinviata il nodo della prescrizione. La prescrizione, quindi tra 10 giorni se ne riparlerà, e nel frattempo bisognerà trovare una mediazione tra PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Come vedi, la vittoria in Emilia sicuramente è stato un tonico, innanzitutto è stata un tonico per Bonaccini, ma un tonico sicuramente per il PD, però non si, come dire, non si trasferisce automaticamente sul governo e sulla, diciamo, una maggiore efficienza o scatto del governo. Al contrario, potrebbe persino, per paradosso, paralizzare l'attività, certo, paralizzare l'attività del governo, perché il PD è molto prudente a non scuotere troppo l'albero grillino, che potrebbe anche crollare, quindi far crollare anche il governo e la legislatura. Certo. I grillini sono presi dalla loro discussione da qui fino alla fine di marzo, e nel frattempo però c'è la questione della revoca delle concessioni ad autostrade, la questione della prescrizione. Il ministro Gualtieri ha messo sul tavolo la revisione di quota 100, visto i risultati deludenti sulla creazione di posti di lavoro. Ma tutta una serie di questioni che però per il devono momento essere affrontate, però allora sentiamo, dicevo, Crimi ieri, che invece, rispondendo quindi più o meno indirettamente a Conte, che ha detto dobbiamo appunto respingere queste destre, a Zingaretti, che ha detto ci vuole un'alleanza progressista più ampia, più larga possibile. Sentiamo Crimi che cosa ha detto il reggente. Non è campo, fronte o la parola che deve farci concentrare sulla collocazione, perché sminuiremmo proprio la natura del Movimento 5 Stelle per come è nato. Immaginare che il fronte debba essere per sconfiggere qualcuno è già, secondo me, un passaggio forte, perché non abbiamo qui a cuore l'interesse dei cittadini. Se io le dico che uno fa un fronte per sconfiggere le destre, ok, ma io da cittadino mi chiederei, sì, ma a me ci hai pensato, o stai lavorando solo per sconfiggere l'altro? Tutti i giorni il cittadino non gliene frega niente se fai il fronte contro la destra, interessa se mi aumenti il lavoro, se mi riduci le tasse, allora sì che va bene. Quindi Crimi è di quell'anima che non vuole essere di destra e di sinistra, però Lina, è vero che... È un'arrampicata sugli specchi, concedimela, perché un fronte contro non è contro qualcuno, è contro il programma di qualcuno, certo, contro un'altra visione delle cose, che qualcuno del mondo dice, quindi insomma non è un'entità astratta. Astratta, esatto. E tra l'altro, Lina, bisogna dire che, come sta anche scrivendo qualche ascoltatore, sicuramente parte del risultato di Bonaccini si deve anche a molti del Movimento 5 Stelle delusi che sono andati al PD. Leggevo, secondo l'Istituto Cattaneo, 2 su 3 delusi del Movimento 5 Stelle, 2 su 3 sono andati al PD come voti. Quindi insomma, non è una cosa l'analisi irrilevante. L'analisi dei flussi dell'Istituto Cattaneo è molto chiara su questo. Quindi c'è stato forse un ritorno di voti a sinistra, perché magari quelli erano i voti che il Partito Democratico aveva perso. Certo. E invece, a proposito sempre di questa richiesta di Zingaretti, no, rinvigorito dal risultato, di dire dai, facciamo appunto, uniamo le forze della maggioranza, facciamo un'alleanza più forte col Movimento 5 Stelle, si alza in piedi Orfini del PD, ex presidente del PD, che dice: il risultato in Emilia Romagna non dimostra che dobbiamo allearci col Movimento. Il Movimento 5 Stelle scompare perché riconquistiamo tantissimi suoi voti, e noi, invece di continuare sulla strada che ci ha fatto vincere, cosa facciamo? Riproponiamo l'alleanza? È incomprensibile da un punto di vista logico prima che politico, ha detto Orfini. Che cosa deve fare anche il PD? Deve decidere cosa fare anche il Partito Democratico, Elina? Sì, anche se magari, sai, alleanza con i 5 Stelle vuol dire anche alleanza con gli elettori dei 5 Stelle, perché abbiamo appena detto che tanti voti degli elettori dei 5 Stelle sono andati al Partito Democratico. Io penso che Zingaretti guardi a quei consensi e legittimamente stia cercando di fare un'alleanza con i 5 Stelle, anche perché non possiamo chiedere alla politica coerenza e poi rimangiarcela, nel senso che se Zingaretti ha comunque fatto il governo con i 5 Stelle, non può dopo pochi mesi tornare indietro, ormai è dentro questa esperienza e quindi deve portare a termine quello che ha iniziato, quindi è legittimo che lui provi a cercare un'alleanza, anche perché ricostruire una coalizione di centrosinistra, oltre il PD i partiti intorno sono piuttosto piccoli, insomma Italia Viva, Calenda, e quindi c'è bisogno anche di portare qualcosa in più alla coalizione di centrosinistra. Lina, alcuni ascoltatori, vari stanno scrivendo, per esempio questo ascoltatore dice: ecco che cosa accade adesso, i governanti sono convinti di aver vinto tenendo l'avversario al 43% nella loro roccaforte, quindi andranno avanti così, quindi alle politiche il centrodestra avrà la maggioranza più ampia della storia repubblicana. In realtà ieri abbiamo detto che non è stata proprio esattamente una debacle quella della Borgonzoni e quindi della Lega in una regione rossa come l'Emilia Romagna, però dai sondaggi precedenti sembrava che insomma il distacco sarebbe stato pochissimo, addirittura che potesse essere in vantaggio, mentre comunque la vittoria di Bonaccini c'è stata chiara, anche se lui stesso dice: non mi nascondo che la destra, le destre prevalgono lì dove c'è il disagio, in particolare nelle periferie, quindi noi dobbiamo darci da fare in questo senso. Come certo, anche se poi al pilastro appunto che dove ha citofonato Salvini ha vinto il PD. Partito Democratico, così come a Bibbiano, comunque sono d'accordo, nel senso noi stiamo così enfatizzando la vittoria in Emilia Romagna perché in realtà era stato Salvini a enfatizzarla, cioè è stato Salvini che ha scelto una strategia di puntare i riflettori sull'Emilia Romagna perché voleva dare la spallata al governo e quindi è stato lui a nazionalizzare questa campagna elettorale. E dopodiché sono d'accordo, tra le regioni governate dal centrodestra, la Calabria appena vinta dal centrodestra, le 6 regioni che andranno al voto, ecco, questo non dimostrano dimostrano che non c'è una prevalenza del Partito Democratico del centrosinistra, anzi il contrario, è solo che ne parliamo perché lui per primo ha voluto parlarne, con quindi ha tentato la conquista della roccaforte rossa. Farei sentire Zingaretti che ha ringraziato le sardine. Credo che dobbiamo dire un immenso grazie al Movimento delle Sardine. È giusto dirlo questa sera perché è evidente che anche la crescita del numero dei partecipanti alle elezioni sia figlia di questa scossa democratica positiva, come ho sempre detto, che il Movimento delle Sardine ha dato rispetto all'aggressività di una destra estremista e che ha sempre gridato con la cultura dell'odio. Quindi grazie a questo movimento che è stato partecipe e ha aiutato la democrazia italiana ad essere più forte. E ha aiutato molto il PD, come ha riconosciuto Bonaccini, come ha riconosciuto lo stesso Zingaretti. Adesso che strada prenderanno le sardine? Cioè saranno, come ha detto qualcuno, solo i riservisti del PD da chiamare in momenti di debolezza o diventeranno una parte strutturale, faranno una loro... Cioè, col PD insomma che cosa succede? Cosa vedi e prevedi, Lina? Credo non lo sappiano neanche loro perché è stato un movimento talmente spontaneo. Io l'ho visto più come un movimento che ha ridato emotività alla politica e soprattutto al Partito Democratico, che non suscitava più insomma grandi emozioni e tantomeno, anzi aveva creato un elettorato piuttosto svogliato, quindi invece sono state le sardine che un po' hanno rimobilitato tutto quel voto di centrosinistra. Le sardine, devo dire, però sono un frutto anche di Salvini, perché io credo che anche l'aggressività di una campagna elettorale esasperata su alcuni toni abbia creato questa reazione, suscitato questa reazione di difesa, dici? Sì, abbia svegliato un elettorato deluso che invece si è sentito provocato. E quindi insomma gli errori sono un po' da tutte e due le parti. Non c'era alternativa alla scelta fatta di Salvini, cioè di nazionalizzare questo scontro, però forse ha ecceduto nei toni e in alcuni gesti. Si è tirato un po' la zappa sui piedi. Allora, vedo un'agenzia di aggiornamento, prima di chiudere, il Presidente del Consiglio Conte convoca i capi delegazione di maggioranza per avviare il confronto nel governo sul cronoprogramma e lì dà appuntamento a giovedì alle 18.30, quindi tra due giorni. Per chiudere, Lina, Mattarella oggi fra le varie cose ha detto serve una visione d'orizzonte per il futuro, una visione lucida per il futuro. C'è questa visione, tu la riscontri, diciamo, nelle forze politiche in questo momento? Ma no, dobbiamo citofonare, diciamo, per svegliare. La nostra visione arriva giovedì quando ci sarà la verifica, quindi vabbè, sì, esatto, un'altra citofonare sì. Giovedì, grazie Lina Palmerini, sono 24 ore, un abbraccio, ciao, buona serata. Ci fermiamo per questa pausa di riflessione e di respiro e continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure sms e whatsapp alla via sms e whatsapp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvisare, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano con voi dalle 21 alle 22 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Continuano i vostri commenti sulla pagina politica che abbiamo affrontato poco fa. Dice questo ascoltatore: se i 5 Stelle si fossero presentati col PD si direbbe che quest'ultimo ha fagocitato i grillini, le sardine sono il convitato di pietra, il nuovo straordinario fenomeno della sinistra dice che vince senza presentarsi alle elezioni. Poi invece Maurizio scrive: vero, il voto PD è merito di Bonaccini, come il successo della Borgonzoni e merito di Salvini. Adesso però occupiamoci di altro, torniamo sugli sviluppi relativi al virus cinese. Salgono i morti del nuovo coronavirus, sono 106 quelli ufficiali, 4.515 nuovi casi di infezione. Il presidente cinese Xi Jinping ammette: combattiamo contro un demone, così l'ha definito oggi. Chiuse scuole, università sino a data da destinarsi, quindi veramente la Cina sta prendendo misure estremamente drastiche in tutta la nazione. Allerta New York per 5 casi sospetti, la Casa Bianca anche valuta restrizioni di viaggi da e per la Cina. In Germania primo caso di paziente affetto da coronavirus. In Giappone un uomo è stato contagiato da turisti cinesi arrivati dalla città focolaio di Wuhan. Hong Kong blocca treni e traghetti per la Cina, nuovo caso sospetto in Romania, 4 casi sospetti in Etiopia, quarto caso in Francia, è grave, un turista cinese. E poco fa vedo 3 nuovi casi accertati in Baviera, cioè in Germania. Vi assicuro che è assolutamente difficile aggiornare tutto il giorno e stare dietro a tutte le novità che ci sono. Comunque l'Unione Europea, per gestire la situazione legata al contagio da coronavirus, ha attivato il meccanismo di protezione civile comunitario a seguito della richiesta di assistenza inviata proprio dalla Francia per fornire assistenza consolare ai cittadini dell'Unione Europea che si trovano a Wuhan e in Cina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ieri ha spostato il rischio da moderato a elevato come emergenza globale, invita comunque la comunità internazionale a mantenere la calma, a non reagire in maniera eccessiva. Intanto la Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, sta valutando l'idea di un trasferimento aereo appena possibile dei nostri connazionali dalla Cina. E ieri vi leggevo questa dichiarazione di Raniero Guerra, che è direttore generale aggiunto dell'OMS, che ha detto: tra i paesi occidentali l'Italia è la più fornita e la più attenta. Questo a proposito delle misure del nostro paese per far fronte al virus cinese. E su questo chiedo il parere, la rassicurazione di Pierpaolo Sileri, che è viceministro alla salute. Buonasera viceministro Sileri. Buonasera dottoressa e grazie dell'invito. Allora mi sembra esattamente come ha detto lei, noi siamo stati i primi ad attivare dei meccanismi di vigilanza. Faccio presente che oggi noi parliamo molto di più del virus, anche perché i casi chiaramente sono aumentati, ma noi abbiamo attivato il tutto già dal 9 di gennaio, cioè dai primi voli che giungevano dalla Wuhan, erano 3 a settimana su Roma, erano già attivi i controlli, ovviamente in una forma che poi è cresciuta. Oggi i controlli sono ancora più attivi, è vero che da Wuhan non vola più, diciamo non ci sono più voli, ma voli dalla Cina oggi vengono controllati rigorosamente, monitorando la temperatura di ogni singolo passeggero sui voli, sia su, diciamo su Milano sia su Roma. In particolare mi pare che vengano diciamo indirizzati verso Fiumicino e Malpensa, Sileri, esatto, tutti i voti, no? Malpensa e Fiumicino, quindi vi è un'equipe costituita da un medico, da un tecnico o da, diciamo, da un infermiere, quindi almeno due unità con dei dispositivi di protezione individuale che sono indossati, e viene monitorata la temperatura, ma non solo. Ad oggi non è stato rinvenuto nessun potenziale paziente affetto da febbre, che poi non significa necessariamente avere il coronavirus, poi quello fa un percorso particolare per il quale si arriva a confermare o meno la presenza di questo coronavirus, di questo nuovo coronavirus. Ma viene consegnata anche una carta che praticamente identifica tutti quelli che saranno i passaggi, i soggiorni del soggetto nel nostro territorio, in maniera tale da poterlo seguire nel caso che accada un qualcosa, cioè sapere con chi è entrato in contatto e dove è stato. E poi viene lasciata una card che spiega cosa fare, perché vede, se lei ha un soggetto italiano, il soggetto italiano ha il medico di base, può chiamare il 118, ma un soggetto straniero che quindi non ha un medico di base e non sa a chi rivolgersi, cosa fa? Fa la cosa più sbagliata possibile, cioè si reca a un pronto soccorso. Quindi non bisogna recarsi al pronto soccorso, è attivo un numero al Ministero, che è il 1500, al quale può chiedere informazioni, e poi da lì verrà dirottato a seconda di dove si trova e verranno date tutte le indicazioni necessarie. Infatti vedevo che a questo numero già ieri erano 400 le chiamate, a questo numero 1500 che lei appunto consiglia, come il Ministero appunto della Salute, di fare in caso di cittadini stranieri, perché per gli italiani ci sono i medici di base. Comunque al momento, Sileri, viceministro, non c'è nessun non caso, c'è, ecco, in Italia, no? È chiaro che vede, noi ci troviamo ad avere questa emergenza globale in un momento in cui c'è anche una, l'influenza stagionale, quindi attenzione, molti dei sintomi sono sovrapponibili. È evidente che quando arriva un soggetto in un pronto soccorso che ha la febbre, magari è stato in contatto, quello non necessariamente è un'infezione dal nuovo coronavirus, però è chiaro che viene improntata tutta quella procedura per escludere. Al momento in Italia non c'è assolutamente nessun caso confermato di infezione da questo virus. Viceministro Sileri, allora, in questi giorni ho avuto qui in trasmissione vari virologi che hanno detto che si tratta di una forma di polmonite che non è così terribile, insomma è una forma di polmonite, le morti sono dovute a persone che erano già molto fragili e sono state poi infettate. Io so che lei, arrivano molte domande, lei è viceministro della Salute, però so anche che è un medico chirurgo che ha una lunga esperienza, non è un virologo, però non so se si può rispondere a questa ascoltatrice, sì. Carla, che dice che ha fatto il vaccino per l'influenza, potrebbe avere una forma più leggera nel caso? No, perché verosimilmente si tratta di un altro virus. Ora io su questo voglio tranquillizzare la popolazione. Noi stiamo parlando di un'infezione nata in Cina, in una città in Cina considerata di media grandezza, 12 milioni di abitanti, quindi immaginate rispetto a Roma quanto è grande questa città. I casi sono sicuramente tanti, sono anche cresciuti perché c'è stata una consapevolezza maggiore, sono stati rintracciati probabilmente meglio, perché poi quando è esploso il tutto si sono cercati i casi, sicuramente il contagio vi è stato, sicuramente ci sono stati i morti, ma è chiaro che ci saranno stati anche dei soggetti che hanno preso il virus e che hanno avuto dei pochissimi sintomi e che quindi non sono nemmeno andati al pronto soccorso, parlo in Cina voglio dire, che quindi non sono stati nemmeno etichettati come infetti. Qui si tratta dei casi più gravi, cioè coloro che hanno richiesto un'assistenza per la complicanza peggiore di questo virus, che è la polmonite. Quindi possiamo, stare tranquilli, a mio avviso. Bene. Al momento. Ecco. Grazie viceministro Pierpaolo Sileri e buon lavoro allora. Dovere, grazie a voi. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che adesso si concentrano sul Medio Oriente. Roberta Giordano sempre con voi. Come aveva annunciato da diverso tempo, il presidente americano Trump oggi ha presentato il suo piano di pace per il Medio Oriente, per una proposta per risolvere il conflitto che va avanti da tantissimi anni tra israeliani e palestinesi, forse la più complicata contesa territoriale del mondo. Per Trump, che ha presentato il piano insieme al primo ministro israeliano Netanyahu, quello di oggi è un grande passo verso la pace. Era atteso da tempo, ma nessuno sembra pensare che porterà davvero a qualcosa, dato che sembrerebbe piuttosto sbilanciato questo piano a favore di Israele, così dicono i palestinesi, col presidente palestinese Abu Mazen che poco fa ha respinto il piano. Ma qualche dettaglio in più ce lo racconta dagli Stati Uniti Marco Valsania. Caro Marco. Buonasera. Sì, potremmo, forse parafrasando Neil Armstrong in avventure spaziali, ecco, questo forse è un grande passo per Donald Trump, un piccolo passo forse per la pace e l'umanità, se ci sarà, almeno stando, come dicevi, alle reazioni e anche al clima che ha circondato l'annuncio, più ancora dei dettagli. Il grande assente da questo piano, dalla discussione di questo piano, erano appunto i palestinesi, e quindi diciamo il clima di totale sfiducia che oggi regna dalle parti. I palestinesi non trattano con Israele dal 2014, non parlano con l'amministrazione Trump dal 2017, ecco, non è sicuramente un clima in cui un annuncio di un piano diciamo concepito e negoziato tra l'amministrazione e il governo israeliano, ecco, non è il clima che possa essere di particolare buon auspicio per una, diciamo, per una vera accelerazione di un processo di pace su un conflitto appunto che da decenni è parso intrattabile. Tra l'altro, tu hai capito bene che cosa intenderebbe in questo piano fare di Gerusalemme Trump? Diciamo che nonostante Trump l'abbia definito il piano più dettagliato mai annunciato, oltre al più grande passo di pace mai concepito, alle mappe più precise mai ideate, diciamo, e altri diciamo superlativi del genere, però ecco, poi nel vedere, nelle prime analisi degli elementi insomma, emersi dall'annuncio, ci sono tutta una serie di incognite. Gerusalemme diventa viene riconosciuta come la capitale unificata di Israele e come tale dovrebbe essere riconosciuta dai palestinesi. Però allo stesso tempo però prevede la creazione di uno Stato palestinese che avrà alcune abbiate grasso, diciamo così, locali, alcune zone marginali della città a est, possa in un futuro diventare una parte di una capitale palestinese. Torna, diciamo, viene messa, diciamo, come prospettiva la soluzione dei due stati, quindi sulla carta una cosa sicuramente voluta dai palestinesi, però vengono poste tutta una serie di condizioni nell'arco di 4 anni a cui i palestinesi devono diciamo rispondere per avere diciamo diritto a questo stato, compreso appunto il riconoscimento di Gerusalemme capitale unica israeliana, e rinuncia al terrorismo, riforme politiche, una serie di cose. Insomma, quindi un procedimento complesso e molto lungo, e allo stesso tempo vengono legittimate molte delle richieste cruciali israeliane, cioè annessioni degli insediamenti in Cisgiordania, sovranità su buona parte poi di fatto della Cisgiordania, della Valle del Giordano, e quindi diciamo cose che in passato invece erano parte della discussione per i palestinesi, dei due stati. Tra l'altro la Giordania mi pare che abbia risposto negativamente a sua volta anche poco fa, ha detto è rischioso e pericoloso continuare su questa strada. Abu Mazen, lo dicevo, presidente palestinese, ha respinto proprio in toto il piano. Vediamo nelle prossime ore se c'è qualcosa di nuovo. Grazie intanto a Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao caro Marco. Grazie a voi. Ciao. E dagli Stati Uniti allo stadio di San Siro, dove c'è il nostro Dario Ricci per la Coppa Italia, partita Milan-Torino. Dario. 52esimo di gioco, risultato ora sull'1-1, ci eravamo lasciati col vantaggio milanista al 13esimo con Bonaventura, bravo a insaccare con un preciso tocco sul secondo palo, un'azione iniziata da Castiglieco e rifinita da Rebic, poi qualche altro spunto rosso-nero, però Milan che si è fatto sorprendere al 35esimo, contropiede quasi scolastico orchestrato da Bremer, approfittando della precisa sponda di Verdi, proprio il difensore Granata si è ritrovata tu per tu con Donnarumma e l'ha battuto con un astuto raso terra. Quindi 53esimo di gioco in questo istante, 1-1 a San Siro tra Milan e Torino. Grazie Dario Ricci da San Siro, direi che possiamo lasciarci, ratta come la folgore, torno poi ad aggiornarvi alle 22.